è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Lei, signor Berlusconi, non è un presidente del Consiglio, ma è uno stupratore della democrazia. Stupratore che dopo lo stupro... Di Pietro, gli occhi hanno pianto. Quante mie incertezze... Lei, signor presidente del Consiglio, sta abusando della pazienza degli italiani. Se ne sta lì, Novello Nerone, nella sua terrazza dorata a suonare l'arpa, con le sue ancelle prezzolate, mentre il paese brucia. Una rivolta sociale necessaria, perché voi siete alla testa della piovra. La testa della piovra si chiama Silvio Berlusconi. Lo dico qui in aula e me ne assumo la responsabilità. Di capire che domani è un altro. È un presidente del Consiglio che si comporta come un Rais. E allora ognuno c'ha il suo Gheddafi, ma noi liberiamoci da lui. Ma che Di Pietro era questo, Parenzo? Come dice il Cantico dei Cantici, c'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace. E per ora è tutto. Saluti a tutti, ci sentiamo domani. Grazie. Avete sentito un Di Pietro vintage? Un Di Pietro, voi... magari immaginate di 10 anni fa, 15 anni fa. Ebbene no, era luglio dell'anno scorso, agosto dell'anno scorso, settembre dell'anno scorso, ottobre dell'anno scorso, novembre dell'anno scorso. Sentiamo invece il tonino Di Pietro di questi giorni, dell'altro ieri. Sbagliato chiedere le dimissioni per il referendum, per esempio. Se noi oggi mettiamo il cappello sopra alle dimissioni del governo Berlusconi e le motiviamo sul risultato referendario e non sulla politica che noi riteniamo fallimentare di questi anni, noi facciamo un'operazione non corretta e non rispettosa del voto di quei cittadini che... Cosa offriamo come alternativa? Non lo so. Ho sentito dire l'onorevole Martino prima, quando diceva appunto: voi cosa offrite in alternativa? Bene, io lo devo dire qui davanti a tutti pubblicamente. Non lo so, perché non ho ancora avuto una riunione con gli altri leader del partito dell'opposizione. Non lo so. E Bersani oggi su Di Pietro, sentitelo. Ma su Di Pietro. Noi da mesi, a dire la verità, anzi forse da un anno, stiamo lavorando sul progetto alternativo, no? Di capire che domani è un altro. Hai capito, sì? No, ho capito tutto. Hai capito tutto, eh? Si stanno preparando alle elezioni, piccola guerra interna di posizionamento del centro-sinistra. Sì, sì. E sì, Di Pietro sì. Punta a catturare i voti di centrodestra in uscita. L'analisi da Ponza di David Parenzo. Cosa pazzesca. 800 24 00 24. Le interviste di oggi di Di Pietro. Berlusconi è una persona sola, se fa le riforme vere lo sosterrò. È una cosa pazzesca. In piazza lascio Bersani e Casini, lo sfido. Attaccarlo non basta. Come attaccarlo non basta? Ha detto che la Videla, Nerone, le peggio cose. Cose incredibili. Va bene, andiamo ancora un po' di raccordo anulare, eh? Usciamo con questa questa canzone che mi non è la stessa. Porta una bottiglia di champagne per cortesia, grazie. Pronto? E vi odio a voi romani, io vi odio tutti quanti. Brutta banda di ruffiani ed intriganti. Buon tempo! Buon tempo, il mitico Pecora! I romani rifiutino il servizio ai leghisti, per esempio il taxi. di fronte a tanta arroganza, ignoranza e razzismo, io credo che i cittadini romani, dal tassinaro al ristoratore, all'albergatore, come uno della Lega, gli dovrebbe negare i servizi. Mi dica bene, Buontempo, scusa, se un tassista riconosce un parlamentare leghista, si deve rifiutare di prenderlo sul taxi? Certo, no grazie, ho rifiuto il servizio perché non lo posso dare a chi mi odia. Questa mattina ad Alessandro Milan c'era anche il nostro amico deputato della Lega, Bonanno. Ah, da sindaco manderei subito il TSO, cioè il trattamento sanitario obbligatorio, perché dire delle cretinate come quelle che ho sentito adesso è difficile. No, perché Roma deve reagire, non è possibile. Roma non deve più subire il trattamento sanitario obbligatorio per quello che hai detto. E poi lo stesso Buonanno, senza Nord Roma sarebbe morta in sei mesi. Tempo sei mesi Roma è morta. Che i soldi dire? Del Nord non vanno più a Roma. Okay. Parliamoci chiaro. E infine, ma non è l'ultima cosa, abbiamo ancora un sacco di tempo, siamo appena all'inizio, il mitico scontro questa ieri ad Agorà da Andrea Vianello, caro Parenzo, tra Pina Picerno e il senatore leghista Massimo Polledri. Senti cosa è successo. Dico alla Lega che da Pontida, diciamo, lancia segnali di celodurismo e poi arriva a Roma e si calano le braghe. A Pontida fanno i coraggiosi, i barbari, a Roma fate i pecoroni. Quindi io... Ma guardatevi, dottori, siete... Eccoci qui, Polledri è deputato e non senatore, 800240024, ed è con noi. Non so se avete sentito la frase che in realtà è stata commentata dopo e non durante la trasmissione di Polledri: se ci caliamo le braghe noi può esserci una bella sorpresa per te, caro Parenzo. Mamma, non la sapevi mia. Questa, eh? Con successive e violenti polemiche. Signor Polledri? Presente, ecco. ci mette la faccia. Bene, bene, questo già è un il premio da baronetto dell'anno. Pensavo di riceverlo magari non stasera, ma comunque rivendico con forza quello che ho detto e un paio di diritti. Cioè, addirittura rivendica, non vuole chiedere scusa alla signora Picerno? Rivendico due diritti. E quale? Quali? Il primo, insomma, su una battuta, il diritto alla difesa. Alla difesa anche maschile, perché il tenore non era dei migliori, e secondo, un diritto psicologico a trovare un peso e uno spazio per il fallo, perché dobbiamo finalmente trovare anche questo. Ecco, allora dunque specifichiamo queste due cose. Partiamo dal primo, perché il secondo è una cosa complicata, Provare peso e spazio per il fallo. Partiamo dal primo, sì. A parte il fatto che sto ricevendo un sacco di telefonate. Immagino, di che tipo? Beh, dalle colleghe di centrosinistra. Cioè? Cioè, dopo, no. Questa, cioè, dopo questa, faccelo vedere? No, adesso non posso, sono un signore. Che cosa dici? Cosa scrive? È stato un signore che tu uomini devi difenderti. Sicuramente una battuta greve, ma l'inizio era: allora, a Pontida voi ormai non vi tira più, ceodurismo non vi tira più. È una metafora politica, però. È una metafora poetica, ma no, politica, politica, non poetica, politica. Politica. Secondo, venite giù, vi calate le braghe. Perché cosa ci si cala le braghe a Roma? Noi, di sicuro, ma insomma, non è che sia una cosa molto piacevole quella che immaginava. Vabbè, ma è una metafora politica per dire che la Lega grida, strilla. La prende in quel posto, ho detto, ma insomma, mentre invece dopo tutta questa distruzione, uniamoci, troviamo un lato positivo della faccenda. Se proprio capita questo, potrebbe essere anche una sorpresa, insomma. È una battuta, ovviamente. Ma ancora? No, però scusi, Polledri, la prima cosa, io non ho capito, la prima cosa, che cos'è che lei ha detto, la prima cosa? No, la prima cosa, insomma, è che ormai il ceodurismo non funziona più, che noi a Pontida... No, lei, la prima cosa, mi ha detto, ho diritto a due cose. La prima ha un minimo di difesa, perché se giustamente la collega, a parte il fatto che dopo ha detto che siamo tutti corrotti e Vabbè, quello lo dicono ogni giorno, lo dicono ogni giorno. Ma pregiudicati, tanto un'offesina da niente. Magari. Scusi un attimo, lei ha detto se ci caliamo le braghe, noi può esserci. Lei ha detto, vi calate le braghe. Vabbè, ma è una metafora politica, sono mesi che... Io sono sbottato, ho detto, potrebbe essere anche una piacevole sorpresa. Ecco, che sorpresa potrebbe essere? Che sorpresa potrebbe essere? Cioè, lei si reputa uno... Adesso, purtroppo dobbiamo... No, io sono modesto, sono coniugato. Vabbè, che c'entra, non è che quelli coniugati... Rivendico il diritto anche maschile di essere dell'orgoglio del nostro essere uomini. Ah. Cioè lei di fronte a questa metafora, a un attacco castratore, sì, nettamente castratore, rivendico il valore positivo e unitario del fallo. Ho capito. Inteso in senso psicoanalitico, come costruzione, il e peso, come possibilità. Ho capito, peso e spazio per il fallo. Ho capito. Peso e spazio per il fallo, in senso freudiano. In senso Totem. Freudiano. Però, creazione, quando lei dice, unità. Ho capito, quando lei dice può esserci una bella sorpresa per te, questa intende? È una rivendicazione del politica. Fatto... Beh no. Trattate sul personale, Beh, su questo però non ci inganna. È una classica battuta da caserma, Polledri. Dai, su, come dire, vieni qui che ti faccio vedere. Esatto. Dai, è una battuta da caserma. Ma l'ho fatto, Come, scusi? A brigante, brigante e mezzo. È una battuta in punta di... In punta. È una battuta in punta. Momenti in cui mi dicono che non mi funziona più. Che in qualche modo siamo sottoposti a pratiche non tanto piacevoli. Ma non le ha detto che non le funziona più? Scusi, Polledri, adesso lei la sta buttando così. Non è che ha detto non le funziona più. Ha detto che la Lega strilla, Pontida. Che il celodurismo ormai non mi funziona più. Non ho capito, ma non le ha detto che il suo organo sessuale non le funziona? Polledri, adesso siamo seri. Allora, ma della Lega? Ma che metafora? La metafora del celodurismo? Una metafora, cerchi di capire, una metafora. Sì, l'ambito metaforico. Ma la sua però non è una metafora, scusi. La sua è una risposta ad una frase della signora Picerno, in cui lei dice se ci caliamo le braghe noi può esserci una bella sorpresa. Lei dice vi calate le braghe e la cosa non è detto che sia una cosa spiacevole. Ecco, appunto, perché lei rivendica di essere piuttosto dotato? No. Ride. E chi è quello di caserma? No, mi hai capito chi fa la parte di quello della caserma. Ma in questo caso io... dei turni. No, scusi, Polledri, io voglio capire una cosa. Lei quando dice che può esserci una bella sorpresa, a cosa si riferisce? Cioè, al fatto che... È evidente a cosa si riferisce. Appunto, no? È una chiamata raccolta, è una chiamata coram populi e leghisti, scusi. In questo mondo ci vogliono delle certezze. Scusi, le colleghe del PD che le mandano messaggi, cosa scrivono? Le rispondono le colleghe della Lega. No, della Lega o del PD che le mandano messaggi? Della Lega le hanno mandato... Che dicono? C'è che scrivono? Una che vuol bere del rosolio con me, bere un bicchierino di rosolio. Per capirci, volete, le mandano messaggi che non sono particolarmente arrabbiate per quello che lei ha detto, sono curiose? Ma sa, no, adesso oggettivamente sa che c'è il gioco delle parti, no? Per cui... E allora le colleghe del PD, che cosa scrivono? In generale ricevo delle... Poi io sono un signore, non posso dire certe cose. Ma no, ma dica, senza fare nomi, senza dire nomi, cosa le dicono? Messaggi di solidarietà... Del PD, colleghe del PD. In generale, del PD, ma... sì, credo di quell'area, non sono più abituato, cioè, ormai c'è un'inibizione dell'essere uomo, cioè viviamo un momento di nascondimenti, un momento di inibizione. Ma perché? Ma non è vero. Ma non è vero, non mi pare proprio che ci sia un momento, c'è grande testosterone in giro, mi sembra. Testosterone è un fatto ormonale, rimaniamo sul piano metaforico culturale dell'uomo. Lunke, lei mi sta dicendo che ci sono colleghe del Partito Democratico e non solo del Partito Democratico. Non si attacchi alla battuta, però. No, non è una battuta, ma ha detto all'inizio, dunque qualcosa di vero c'è. Era una missione così per me. Che le mandano dei messaggi, dicendo insomma, perché non usciamo insieme? Bella battuta, complimenti. Bella battuta, complimenti. E poi qualcuno dice, vabbè, vediamo, qualcuno le ha scritto, vediamo cosa c'è sotto, siamo curiosi di vedere. Sì o no? Poi le ride. Traffico, torniamo subito, traffico. E vi odio a voi romani, io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, in collegamento dall'isola di Ponza. David Parenzo, nel suo albergo. Buonasera. Ordina lo champagne un attimo, fatti portare un po' di champagne, eh? Champagne per cortesia, subito champagne. Sto facendo un'inchiesta, non è che sono qui per le vacanze. No, vabbè. un'inchiesta. L'onorevole Massimo Polledri della Lega Nord, il quale mi sembra che non chieda scusa all'onorevole Picerno, sbaglio? No? Ma scusa di che cosa? No, è una battuta, tra colleghi. Nessuna scusa. È una battuta tra colleghi. Va bene, è una battuta. Ma e è... la moglie che le ha detto a sua moglie, però? Questo è importante. Non sa niente, evidentemente, e torno a casa stasera con passo, dimostrando veramente chi comanda in casa, con passo... felpato. Cioè, in che senso, scusi, signor Polledri? Come non sa niente, non si informa di quello che fa sua moglie quando va a entrare? Si informa regolarmente di quello che fa. Però? Di questa cosa qui spero che non abbia visto niente. Insomma. Perché? Mia moglie è molto riservata, tranquilla. Vabbè, poi comanda lei in casa, ha detto, no, Polledri? Beh, ovvio, perché in casa sua chi comanda, scusi. Ma insomma, ci possono anche essere rapporti paritari, insomma. Io vorrei vederlo. Voglio vedere la democrazia in casa degli altri, eh? Vabbè, comunque, insomma, cioè, secondo lei nei rapporti tra uomo e donna è meglio che comandi l'uomo, insomma. Ma io rivendico il diritto di un po' di decisionismo, e poi scusi, sì. Nella vita ci vogliono anche sicurezze. La Lega è sempre stata cerodurista, cioè una Lega ancora è un perdono, si perdono i punti di repro nel mondo. Ma per esempio ci vogliono certezze. Sì, assolutamente, infatti lei devono avere certezze. È un po' questa caratteristica. Quando questa certezza viene messa in discussione, come nel caso del nuovo Picerno, allora bisogna rispondere colpo su colpo, giusto? Va tirato fuori. Quinto colpo bisogna difendersi. Scusi un attimo, ma a proposito di questa vicenda del cerodurismo, ma qualche gay nella Lega ogni tanto fa capolino? Ma ancora quei gay. Fa capolino o no? Ma noi li abbiamo trovati in sede a Bologna, lei sa che noi avevamo due candidati. E allora? E allora hanno preso pochi voti, sono lì, condividono tra l'altro anche la battaglia che abbiamo fatto contro l'istituzione del reato di omofobia, cosa fanno sotto le lenzuole, sì. Sono fatti loro. E, per cui ci sono tranquillamente? Sono omosessuali, ma non omosessualisti, c'è una differenza diversa, una grande differenza. Sì, sì. Ma lei ha figli? Lei ha certo attivismo, sì. Omosessualista, infatti non per niente, molte critiche. Mi hanno invitato poi dopo anche, infatti le donne hanno detto, beh, insomma, adesso tutti scandalizzati, tutti, perché in caso una battuta, poi dopo vanno a fare festival gay, quindi non è che... Vabbè, non c'entra niente con la sua battuta. Ma no, una battuta, magari, per carità, non penso di aver offeso, se ho offeso mi scuso ovviamente, ma non credo proprio che sia arrivata l'offesa. Qualcuno ha detto che i gay sono addirittura il sindaco di Sulmona, alcuni gay di un'aberrazione genetica, respingiamo questa cosa vergognosa, no? Giusto? No, io credo che i generi siano due, contrariamente a quelli che pensano all'identità di genere. A me una volta mi hanno detto che sono sette i generi. Adesso voi ci pensate, io faccio il medico. Infatti lei fa il neuropsichiatra, no? Pure il medico, sì. Sì. Ed è pure il medico. Che deve fare? Fa il medico? No, perché... Fa il medico. Quando Bossi mi dice che sei il medico dei matti, io gli rispondo, Umberto, sono nel partito giusto. No, dico neuropsichiatra, perché c'è sempre in testa quella roba lì, amico mio. Comunque, anche psichiatra. No, quella roba lì perché? Ce l'ha sempre lì, sempre in testa quella roba lì. Vieni qui che ti faccio vedere. Non ti parlando di Eros, però. Di Eros. Sì. Lei è un po' fissato col sesso? Lei è un po' fissato col sesso? Le piace, insomma, no? Ci penso spesso. Ecco. Vabbè, ma normale. Quando giri per Roma? Lei giri per Roma al mattino adesso con questi caldi. E che succede? Che succede a Roma? Che effetto fa? Lei gira. E che succede a Roma? No, ma che succede se uno gira per Roma? Ogni tanto a me succede... Lei giri per Roma al mattino? Sì. Che succede? Che succede? Una di testa. Ah, per le tante donne vestite in maniera succinta che in giro. Viene mal di testa. Lei quando va al mare cosa fa lei? Non ho mica capito, rimane tutto il giorno in spiaggia con l'asciugamano davanti. No, e lì non c'è la stessa cosa, Parenzo, non mica lo stesso. Parenzo, infatti... lì tutto esibito, è tutto già pronto, non c'è così gusto. No, certo, assolutamente. Quindi lei si arrappa girando per le strade di Roma, una meraviglia proprio. Una cosa pazzesca. Poi soprattutto... Parenzo per guardare arrappare, Ha detto a Roma, poi, tra l'altro, a Roma. Senta, ma è vero che i romani sono questa storia del grande raccordo anulare? Condivide quello che ha detto Castelli? Qui sono un po' arretrati culturalmente, dalla parte di Castelli oppure di tutti quelli che... sono molto più furbi di noi, posso dirlo. In che senso? Infatti noi paghiamo e loro non pagano, mi sembra evidente la differenza. Sono furbi e basta. No, sono furbi, sono evidentemente come noi e senza nessuna distinzione, però... non vedo molta differenza tra la tangenziale nostra. Il sindaco Alemanno dice che quella di Milano non è dentro in città. Ma insomma, a parte che io sono molto amico di Gianni Alemanno, lo stimo, ma mi sembra che sia in città. E poi dice che quella di Roma loro serve, a voi serve per lavorare. Ma quella di Milano non è che la usiamo per andarci al mare. Abbiamo la pubblicità. Una cosa le voglio chiedere. Lei vede per strada due uomini o due donne che si baciano. Che reazione ha? Ma lei fa sempre questa domanda a tutti i leghisti? A tutti. Cioè, c'è proprio... Allora, si prepari la risposta prima, oppure sia sincero. Sia sincero, dica qualcosa dal cuore. Sì. Non ho mica niente di cui vergognarmi. No, allora che succede? Vedo due donne che si baciano bene, possibilmente due uomini che si baciano... Ciao, buonanotte. Sì, due uomini o due donne, guarda. Un uomo e una donna che si baciano... tutto normale, se in modo troppo esibito, secondo me non va bene. Due uomini che si baciano non mi piace. A dopo. Rivendico il valore positivo e unitario del fallo. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta in collegamento dall'isola di Ponza, David Parenzo. Buonasera. Vuoi annunciare tu il... hai qualche messaggio da dare innanzitutto? Beh, cari amici della Zanzara, anche qui, dalla meravigliosa isola di Ponza, isola molto vicina a Roma, voglio lanciarvi il mio piccolo e moderato editoriale della giornata rivolto a questo senatore Polledri, il cui cognome potrebbe farci sorridere, ma che in verità nelle ultime ore ha voluto tirar fuori quanto di meglio ha nel suo corpo e nella sua mente con questa metafora alquanto discutibile. Io gli voglio dire, caro Polledri, ci sono solo tre parole, caro Polledri, fuori di bal. TG3. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Berlusconi, giovedì una prima tranche della manovra, non sarà una cifra elevata, poi Palazzo Chigi precisa, manovra unica ma modulata negli anni. Leader europei nominano Draghi presidente della Banca Centrale Europea, Napolitano guida forte e sicura, caso Benismaghi risolto, si dimetterà entro l'anno. Alfano stop alle intercettazioni, si riparta dal testo discusso alla Camera, Bersani strumento da mantenere ma non pubblicare quelle irrilevanti. Sfido il Premier sulle riforme, fa discutere la svolta di Di Pietro che incalza il PD sull'alternativa, la replica non è il momento di alimentare divisioni. Pisapia contro la Moratti, ha mentito sul bilancio, lascia un buco di oltre 180 milioni, la replica falsità, vuole solo aumentare le tasse. Rifiuti a Napoli, il ministro dell'ambiente annuncia provvedimenti straordinari, governo pronto al decreto ma arriva all'alto là della Lega. Non ha risposto ai PM di Ascoli Salvatore Parolisi, unico indagato nell'omicidio della moglie Melania, una folla arrabbiata fuori dal tribunale. Io odiava quel Marco Travaglio, quel Santoro e quella Gabbanelli, che svelavano i trucchi e i tranelli, le truffe e i bordelli con le intercettazioni. Lui voleva una legge bavaglio. Credo di dire una banalità, ma una cosa condivisa da tutti, credo che non sia civile un paese in cui non ci sia più la garanzia della inviolabilità di ciò che si dice al telefono. Non è più vita quella di alzare il telefono e di non poter parlare liberamente, con il rischio che queste intercettazioni, che queste telefonate siano intercettate e di vederle apparire, anche se non hanno nessun risvolto penale, sulla stampa o su internet il giorno dopo. C'è una convergenza sulla linea della maggioranza, quella cioè della di limitare le intercettazioni non rilevanti. Io non so quello che significa, perché qualche magistrato fa osservare che la rilevanza delle intercettazioni la decide il magistrato stesso, naturalmente, no? Certo. Ma in ogni caso poi non succederà nulla, come al solito in Italia, perché tutti hanno interesse a mantenere la situazione così com'è, diciamo la verità. Tutti hanno interesse, compresi i direttori dei giornali. Giuliano Ferrara scrive sul Foglio, secondo me giustamente: sono stordito dalla sordità di De Bortoli, Ezio Mauro, Calabresi, che non appartengono alla stirpe teppistica dei tabloid che vivono di infamia. Pubblicare un testo in cui un ministro è definito brutta mignotta, nel caso della Brambilla, è una roba che non ha rilevanza all'infuori della generica caccia all'uomo e alla sua sfera privata, non è un atto di buona informazione. Ma questa è la mia posizione arcinota. Voglio aggiungere qualcosa a questa mia posizione. Regolare la pubblicazione delle intercettazioni, non la possibilità di farle. È troppo tardi, secondo me, e soprattutto non si fa sull'onda di uno scandalo. Se ne parla da anni, perché non ci hanno pensato all'inizio della legislatura? Il problema era già sul tappeto, no? Si doveva fare subito, invece lo vogliono fare adesso sull'onda di uno scandalo, e come al solito sull'onda di uno scandalo non si fa nulla, tu vedrai, con una maggioranza che naturalmente è debole, no? Sì, purtroppo però l'Italia ci ha abituato alle leggi di emergenza, quindi fatte sull'onda dell'emergenza, e se c'è una convergenza anche in alcuni settori del PD potrebbero rispolverare la vecchia proposta di Mastella, no? Ti ricordi? Quella del governo Prodi? Sì, e infatti di questo si sta parlando in queste ore. Bersani, senti Bersani, non pubblicare le intercettazioni se non sono rilevanti, ma anche qui chi decide se sono rilevanti o no, se non il magistrato? Per cui secondo me la pubblicazione deve essere interdetta fino all'inizio del processo, proibito. Comunque, con forti multe. La pubblicazione, ma la pubblicazione. Falchi, quando la Falchi parlava con Ricucci in quel famoso messaggino. Ma chi se ne frega? Ma quello era evidentemente irrilevante. Ma sarà rilevante nel processo, perché bisogna conoscerlo prima, sarà rilevante nel processo forse. Comunque, in ogni caso, le nostre posizioni sono chiare. Tu sei per la pubblicazione, io no. Bersani. La pubblicazione con un minimo di allora queste intercettazioni perché il magistrato le considera rilevanti? Perché servono come scusa per scriverle un clima, esatto, un bravo, a dipingere un quadro, e allora le mettono dentro anche quelle più irrilevanti, ma è chiaramente una scusa. La nostra posizione sulla questione delle intercettazioni è una posizione che, riassumendolo in due parole, determina meccanismi per cui non vengano divulgate intercettazioni che non ha senso divulgare, perché non incidono in nessun modo, riguardano la privacy, toccano la privacy dei cittadini, senza avere pertinenza con l'azione giudiziaria in corso. E lo stesso D'Alema aggiunge: certamente il problema esiste e certamente noi leggiamo valanghe di intercettazioni che nulla hanno a che vedere con vicende penali e che sgradevolmente riferiscono vicende private di persone. L'assenza di una norma a chi va imputato se non all'attuale governo? Parla Licio Gelli! Parla l'ADN Cronos, l'ADN Cronos di Pippo Marra. La P2, dice Gelli, sentirete anche questa voce che sembra venire dall'oltretomba. Una voce funerea, per carità. Che dice? Una voce lontana, tetra. Licio Gelli. Parla. Invenerabile. Come si chiama la villa? Villa Wanda, come si chiama? Villa Wanda, buonasera, io quando telefonavo, poi io lo chiamavo, non per ragioni di... perché volevo intervistarlo, telefonavo e c'era una signora che rispondeva: Villa Wanda, buonasera, di come Villa Wanda? Che è un po' surreale, Villa no? Villa come fosse, no, sono hotel, no? Chi so io, no? Hotel Cruciani, Hotel Santa Domitilla, buonasera. E dici, come sono? Villa Wanda? Licio Gelli, la P2 persone oneste, la P4 carnevalesca. Beh, adesso... Senti. A chi era formata la P2, persone oneste, per bene, cristalline e che amavano la patria. Invece la P4 come la possiamo definire? Se esiste carnevalesca. Bisignani, l'ho conosciuto tanti anni fa, lo feci diventare a un certo punto ufficio stampa del ministro Stammati, credo non abbia fatto nulla Bisignani, era iscritto alla P2. Io credo che Bisignani non abbia fatto assolutamente nulla, per aver avuto dei contatti e basta. È tutto nella testa dei giudici, arriverà la P5, è una sigla magica. Io credo veramente che esista nella mentalità dei giudici la P4, prossimamente verrà fuori la P5, ormai è una sigla magica, no? Eccoci qui, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara che recepisce messaggi anche da Villa Vanda. Da Villa Vanda c'è un messaggio per Bisignani che vuoi dare? Ah sì, messaggio per Bisignani: l'acqua della piscina è senza cloro. Ripeto, acqua piscina senza cloro. Messaggio in codice cifrato A24 alfa. Bene, ascoltatori, direi e andiamo a Brindisi. Scusa, Raffaele. Raffaele, sì, dica. Sì, sono qua. Buonasera a tutti, Gianni. Dica. Io ho notato stranamente questi ultimi giorni, sì, che a differenza di come era prima il TG1 di Minzolini, sì, che fu presente solo all'inaugurazione del termovalorizzatore di Acerra e poi non c'è stato più, non c'erano i rifiuti qualche settimana fa, due settimane fa, non c'erano a Napoli, infatti non c'era neanche il TG1. Stranamente, con l'avvicendarsi del sindaco De Magistris, tutti i giorni ci propina mattina, sera, mezzogiorno, lunghi servizi sulla spazzatura di Napoli, che stranamente forse prima non c'erano, lo so. Ma io non so se non c'erano prima, comunque prima c'era la Iervolino, dunque anche il TG1 in teoria doveva interesse a fare servizi su Napoli con la Monnezza. Cioè non... Ma beh, come hanno cancellato da Santoro, potevano anche cancellare Minzolini. Vabbè, ma quello è un altro discorso, su. Pubblica, e diventasse pubblica fino in fondo. Vabbè, di cosa si lamenta in questo caso? Lei, Raffaele, scusi, di cosa si lamenta? Che il TG1 dà troppo spazio alla questione dei rifiuti di Napoli, facendo vedere Napoli in base dei rifiuti, perché adesso sta c'è De Magistris. Sta ammazzellando la gente, non è che sta facendo. Va bene, faremo un minutaggio, faremo, non lo so, faremo un minutaggio del... La ringrazio, so che lei è molto arguto su queste cose. No, ma non sono arguto, è questione di essere arguti, è una questione, faremo un'inchiesta su quanto tempo il TG1 ha dedicato alla questione dei rifiuti a Napoli, di cui si occuperà il Consiglio dei Ministri, su cui De Magistris è molto duro perché dice, sì, che il governo non lo vuole aiutare. Il TG1 faceva questi, ma chi se ne frega? Ma scusi, posso dire chi se ne frega di quanto tempo il TG1, bravo, dedica alla questione di De Magistris? Ma chi se ne frega? Può darsi, posso pure dire una cosa in più? Sì, il TG1 non solo non sposta un voto, ma fa solo danni al centrodestra. Cioè ormai il TG1 è talmente nell'immaginario collettivo, uso una parola alla Borghezio, sputtanato, sì, che ormai non è che fa opinione, non fa notizia, cioè fa molta più notizia il fatto, fa molta più notizia la 7, no? Cioè nell'agenda politica c'è molto, ha molto più peso quello che viene detto alla 7, adesso sarei in conflitto di interessi, ma come peso, sì, o posso dire anche... Sì, tranne quando ci sono gli editoriali di Minzolini che fanno discutere, perché appunto c'è la solita... Nel senso che fanno, ma non sono nell'agenda, cioè non è che uno va nel TG1 e cambia parere, non è così. Ma nemmeno prima, nemmeno prima, ma l'hanno dimostrato le ultime elezioni, no? Quindi basta prendersela con Minzolini, ecco, ora devo difendere Minzolini, basta, e sparare sulla Croce Rossa, basta, fategli fare quella roba lì e va bene. Andrea da Bologna, buonasera. Pronto? Pronto? Dica. Buonasera. Ma niente, volevo esporre la mia teoria sul rapporto tra Berlusconi e Di Pietro, che secondo me sono amanti segreti dai lontani tempi di Tangentopoli. Amanti segreti, un attimo solo, sì, c'è la borsa, torno da lei. Io odiava quel Marco Travaglio, quel Santoro e quella Gabbanelli, che svelavano i trucchi e i tranelli. È inutile, non riuscirete a farmi appassionare al contenuto delle intercettazioni. Certo, mi fanno ridere, mi fanno sorridere, non mi fanno nemmeno ragionare, non mi fanno ragionare su un mondo, mi fanno ridere, mi scappa una battuta, poi passo avanti. E mi fa arrabbiare un procuratore, il procuratore di Napoli Lepore, il signor Lepore, il quale dice che è un magistrato procuratore di Napoli, dice la gente si arrabbia, secondo lui, poi non so dopo quale analisi sociologica fatta da chi o dopo quale indagine, la gente si arrabbia per la diffusione, non per la diffusione, ma per il contenuto delle intercettazioni. Senti. Che la gente si sgomenta e si arrabbia per la diffusione delle intercettazioni, sì, ma non del contenuto delle intercettazioni, e questo è molto grave. Sì. secondo lui la gente si arrabbia per la diffusione, non per il contenuto. A parte che non è vero, è il contrario. Invece, secondo lei, però, bisognerebbe arrabbiarsi per il contenuto delle intercettazioni. Dunque, ha già dato un suo giudizio sulle indagini in corso. È tutta una schifezza, un magna magna, eccetera, eccetera. Cosa pazzesca. No, al di là dei reati, no? Ma non deve parlare di queste cose, lei, però, del contenuto delle intercettazioni. Il fatto che dica che sono gravi le cose là dentro è una cosa pazzesca. Ma anche se non ci sono reali, adesso al di là del fatto, quello è un procuratore. Ma aggiungi ancora una cosa, Lepore, le intercettazioni fanno emergere legami, ma è roba da matti, senti. Ma su pettegolezzi tra due persone dov'è la rilevanza penale? Ma se lo guardiamo nel loro insieme, l'intercettazione, e abbiamo il quadro generale, anche il fatto del gossip, della chiacchierata, vuol dire, sta a dimostrare, per esempio, che un dato soggetto frequentava non solo queste persone ma altre, quindi si interessava di altri fatti. Ma ti rendi conto o no? Cioè, dimostra che un soggetto frequentava un altro soggetto, che è un reato, un crimine. Non... No, ma secondo la procura, sì, sì. Cioè, chi sta formulando il capo di imputazione, sì, ho ritiene, ma certo, che è un reato. È ovvio che difende l'inchiesta. Oh. Il procuratore ci ha messo la sua firma. Ma non, no, è mica Woodcock, no, che si alza una mattina. Ma scusami, ma deve stare zitto, deve stare zitto, non deve parlare, deve stare zitto. Correlli nel 92 non spiegava il senso. Doveva stare zitto anche lui. Doveva stare zitto anche lui. Sì. Ma i magistrati devono rendere conto del lavoro. Devono stare zitti a fare le indagini, ma anche rendere conto del lavoro che fanno. Se uno non parla delle proprie indagini, di che cosa deve parlare? No, ma che stai scherzando? Parlare delle proprie indagini, ma è esattamente il contrario. Esattamente. Non può parlare della riforma della giustizia. No, sì, quello in teoria un provvedimento, sì, che ha preso. Ci sono gli organi sindacali, deputati, a parlare della riforma della giustizia, organi sindacali dei magistrati. Però attenzione, lui non ha emesso. È come se l'avesse messa su, diciamo. Saranno la verità. Altri giudici. Quante volte è successo che dei giudici? Vabbè, ma perché tu, come fai assolto a difendere Lepore? Come fai, no, a difendere Lepore? Ma non difendo Lepore, difendo il sistema, che tutto sommato è un quale sistema, sistema? Che nonostante le sue lungaggini vergognose, è un sistema che alla fine garantisce l'imputato. Ah, meno male che garantisce l'imputato, che viene praticamente sputtanato prima del processo. Ma meno male, allora, che garantisce l'imputato. Bisogna cambiare la legge. Bisogna allora cambiare la legge. Bisogna cambiare la legge. Quando si vuole cambiare la legge, tutti gridano al bavaglio, alla libertà di stampa. Ma scusa, anche il centro-sinistra ora vuole rivedere le questioni delle decisioni. Bene, vedremo, non succederà nulla. Lo si faccia. Secondo me lo si deve fare, perché si metta a mano pure alcune norme, si rivedano, certo. Sì. Senti un attimo quello che ha detto Vittorio Zucconi ieri, sembra, sul sottoscritto, poi non ha capito nulla dell'intervento precedente che viene mandato in onda da Radio Capital, non so in quale trasmissione. Senti, chi se ne frega di quello che dice Zucconi su Radio Capital, abbia pazienza. Ma Cruciani, secondo te, l'ha preso il diploma di quinta elementare? No, non lo so. No, vabbè, glielo chiederemo. Allora, l'amico Vittorio Zucconi non ha capito assolutamente nulla. Io non dicevo chi se ne frega di quello che dice Vittorio Zucconi su Radio Capital. Lo diceva un ascoltatore che insisteva. Io ho sentito l'intervento di Zucconi a Radio Capital. Non volevo dire che quello che dice Zucconi a Radio Capital è irrelevante, figuriamoci. Dicevo semplicemente ieri a Radio Capital. Dov'è che hai tanato sto Zucconi? A Radio Capital me l'hanno segnalato. No, dall'America, magari... Zucconi si interessa di Cruciani, ma ti rendi conto? Dall'America, Zucconi. No, poi dicendo che non ho la quarta elementare, a parte voglio segnalare a Zucconi che sono laureato, ma non sarebbe il caso di segnalarglielo. Magari anche la sua era una metafora. Voglio dire all'amico Zucconi, se in ascolto a qualcuno di Radio Capital che glielo riferisce, che non era una cosa insultante nei suoi confronti, certo. Era semplicemente, siccome l'ascoltatore insisteva, io ho detto: scusi, ma chi se ne frega di quello che dice Zucconi Radio Capital, stiamo parlando d'altro. Questo era il senso. Però, beh, però il titolo è Zucconi all'attacco della Zanzara. Zucconi attacca Cruciani. Sergio da Roma, 800 24 00 24. Pronto? Dica, signor Sergio, alzi la voce. Buonasera dottor Cruciani, finalmente posso dire la mia su la sua trasmissione. C'era Andrea, no, scusi, c'era Andrea da Bologna. Un attimo solo, Sergio, c'era Andrea da Bologna che doveva concludere. Andrea? Pronto? Sì, Andrea, che stava dicendo tra Di Pietro e Berlusconi, cosa c'è? Ma questa secondo me è la mia umile teoria, che insomma, che sto covando da alcuni anni, che appunto, tanto rumore, un po' secondo il teorema anche di Parenzi o di Batman e Joker, cioè che ci vogliono per forza due antagonisti. Prima di Tangentopoli, appunto, Berlusconi non aveva intenzione di far carriera politica. E quanto, insomma, se non proprio avanti, comunque complici. Cioè, Pietro gli ha spianato, diciamo, la piazza al signor Berlusconi. Poi, secondo me, con tutta questa polemica appunto molto molto provocatoria nei confronti del Premier, ha diviso il signor Di Pietro, ha diviso diciamo l'elettorato di opposizione. Vabbè, adesso ha diviso l'elettorato, mi sembra esagerato, sì, ha fatto un intervento in Parlamento, ha fatto un intervento in Parlamento. No, negli anni ha portato via voti al PD. In questo senso, vabbè. Sì, in questo senso. Ma comunque la teoria di Di Pietro e Berlusconi, lo scambio Scilipoti, voglio dire, va bene Andrea, io voglio dire la teoria di Pietro e Berlusconi che si tengono l'uno con l'altro, non è una teoria nuova. La ringrazio, eravamo con Sergio da Roma. Sergio? Sì, buonasera. Dica. Dottor Cruciani, vorrei dire la mia sulla sua trasmissione, che io trascorrendo parecchie ore sulla macchina, le due cose che vorrei osservare, prima che lei apre sempre su Berlusconi, capisco che fa audience Berlusconi, però io non ne posso manco più di sentire sempre Berlusconi, posso no dire la mia? Perché non ha parlato e non parla mai dell'invasione degli immigrati? Ieri 870 su un barcone di colpo, 870 provenienti tutti dalla Libia nella quale noi siamo andati a fare una guerra pazza. Tra l'altro è stata invocata questa guerra pure però, come Sergio, mi scusi, grido di dolore Sergio, del popolo spezzato di democrazia. Sergio, mi scusi un attimo, perché mi vuole dire con che cosa devo aprire, con che cosa devo chiudere, no, parlare di Berlusconi, non parlare dicendo, di Berlusconi? No, è una mia osservazione. Sì. Lei ha, per esempio, su Berlusconi... Onestamente. Ho capito, ma Berlusconi è il presidente del Consiglio, dice, a parte che non apriamo sempre con Berlusconi. Oggi sì, ieri pure. Io ieri volevo intervenire, pazienza, però non è stato possibile. Va bene, d'accordo Sergio. Parlate d'altro, dice lei, parlate d'altro ogni tanto. Provo. Allora, una, non parliamo mai degli immigrati. Ma Sergio, ma ne parliamo sempre, su un barcone. Va bene, ho capito, ma ci sono tantissime altre trasmissioni che ne parlano. Su, Sergio, mi faccia sentire Cinzia dalla provincia di Ancona. Cinzia? Pronto? Dica, signora Cinzia. Sì, io volevo solo fare una considerazione, non so neanche se ne vale la pena, su il manifesto del PD per la festa dell'unità. Sì, se non lo sa lei, se ne vale la pena, lei? No. L'ho visto e non capisco francamente le polemiche. Cioè, ogni tanto c'è una parte della sinistra che fa delle polemiche intellettuali pazzesche, incredibili. Cioè, quella comitato Se non ora quando e altre donne del Partito Democratico reputano il manifesto, che si ispira a una famosa foto di Marilyn Monroe, credo, cui la gonna si alza e la donna con delle bellissime gambe mette le mani per non far scoprire diciamo le parti intime, come un attacco, un'utilizzazione impropria del corpo della donna. Era un manifesto noia, per la festa noia, del Partito Democratico a Roma, una noia mortale. Beh, volevo dire una cosa, che a parte Marilyn Monroe, ma stiamo parlando di un partito e di politica, quindi secondo me ci sono, la comunicazione va dosata. Sa cosa? Che io sono, ho capito, signora Cinzia, era il titolo di questa festa dell'unità, credo, sia Il vento che cambia, una cosa del genere. E lì i creativi hanno voluto, come dire, no, rappresentare il vento con quella gonna che svolazza e si alza. Una va benissimo, ma chi se ne... Ma perché uno deve fare polemica? Quale utilizzazione non del corpo della donna? Se lei mi vuol far dire quello che penso, bene, se no... Ma io mi sto rivolgendo ad altri, non a lei, signora Cinzia, a quelli che hanno fatto polemica, Anch'io non è che sono tranquilla, sa perché? Perché? E perché? Rispetto a Cambia il vento, io ho fatto il tifo per Pisapia e sono andata a votare con tanta voglia per il nucleare, pensando che in effetti il vento cambiava. Ora, parlando di politica in questa situazione, per quello che riguarda il rappresentante della Lega e l'orgoglio maschile, ci sta, da loro me l'aspettavo. Me l'aspetto e non mi interessa, però il Partito Democratico, che ha una storia, un'identità che adesso non si vede più, forse dovrebbe comunicare altro. E io sono soltanto un po' amareggiata perché, come dice Nanni Moretti, purtroppo, come diceva, con questi dirigenti non vinceremo mai, perché poi uno, quello che comunica, e anche quello che c'ha dentro la testa, qualche volta anche con certi elettori, dico io. Grazie signora Cinzia, grazie, buonasera. Grazie. Con la mentalità, con la mentalità. Rapidissimo, Cruciani, come lotta. Questa è bellissima. E no, io non lo so, cioè, con certi elettori oppure con certi piccoli dirigenti o supporter, perché è veramente una cosa assurda fare una polemica su quel poster o su quel manifesto. Ma cioè, certo. Sai chi c'è? Non posso saperlo, sono a Ponza. Chi c'è con te? Mario Borghezio! Eccolo. Come va? Eccolo. Eccolo, sempre bene, sempre bene. Poi sono molto contento perché ho scoperto con grande entusiasmo, come euroscettico, di avere il guru più importante, il testimone più importante che si possa avere, a cui potessi aspirare. Beh, insomma, avete sentito tutti, penso, le parole pronunciate molto chiare, pronunciate da Papa Ratzinger nella sua visita in Croazia a Zagabria. Ha parlato molto chiaro, ha detto cosa pensa dell'Europa. Che ha detto dell'Europa, signor Borghezio? Noi siamo ignoranti, non lo sappiamo. Ha detto che fanno bene i croati ad entrare in Europa, però tengano conto, li ha ammoniti, sì, che quella è una costruzione centralista che cede al razionalismo, sì, opprimente, non ho usato il termine opprimente, ma insomma, sì, li ha ammoniti in sostanza ad entrarci con cautela, con giudizio, adelante con giudizio. Adelante ma, con giudizio. A me è piaciuto molto la condanna del centralismo, dello statalismo centralista, perché centralista. Questo è proprio il cuore del problema, una cultura razionalista, e direi che sono le critiche di fondo che fa anche che lei, noi insomma abbiamo sempre fatto. Io alla riunione qualche giorno Padano, fa insomma, a Bruxelles del nostro gruppo euroscettico, che tra l'altro è costituito da inglesi e di varie nazionalità, ci sono degli ortodossi. Scusi, però lei è parlamentare europeo ed è anche euroscettico, non è un po' strana questa cosa o no? No, ci sono due gruppi euroscettici, cioè noi, io in particolare mi ritengo, diciamo, eurocritico, sì, però queste parole del Papa sono la risollevano di morale. Bisognerebbe stamparle sui manifesti la prossima volta che ci presentiamo all'Europa. Senta, signor Borghezio, qui, una grande soddisfazione. Qui a Roma, cioè a Roma, in Italia, si parla in realtà d'altro. Si parla, per esempio, si parla di mille cazzate. Vabbè, questo è anche vero. Come l'ultima che abbiamo sentito, un manifesto obiettivamente. A me spiace che abbia fatto il PD un manifesto, direi bello. Infatti, vuole proprio la coglionaggine di certo femminismo in ritardo a trovarci qualche cosa di malevolo. Cioè lei, quelle che criticano le donne del PD e quelle di Se non ora quando, che criticano questo manifesto, come le definisce? Direi dei testimonial del fatto che l'idiota in politica c'è anche da altre parti, parafrasando un celebre libro sempre detto con... direi l'idiota non ha patria, insomma. Senta Borghezio, a proposito di ozie cose, se ne sono sentite diverse, per esempio su questa questione del grande raccordo anulare. Per esempio Alemanno è scatenato nei confronti del suo collega Castelli, ha detto ignorante, eccetera eccetera. Io non proseguirei questa polemica, sinceramente. No, come non proseguire per questa molto. Penso che al nord abbiamo altre gatte da pelare e ce le dobbiamo pelare noi, perché no, ho capito, però voglio dire, quindi scusi, perché i romani non vogliono pagare il grande raccordo anulare, signor Borghezio? Ma non lo so, bisogna chiederlo a loro. Ma lo dica lei perché? Perché bisognerebbe fare il trapianto del cervello, vuole che le dica. Però oggi direi parliamo. No, scusi un attimo, però adesso Borghezio non può sfuggire a questa cosa. Adesso non fuggo, ma è troppo facile. Cioè, mi chiedete di sparare sulla Croce Rossa. E chi sarebbe la Croce Rossa? Ma la Croce Rossa sono quelli che non vogliono pagare il grande raccordo. Non vogliono pagare il ticket per il raccordo. Direi che è una. Castelli ha detto che sono arretrati culturalmente. Ma io, poi diceva, io penso, in realtà io, corretto, dicendo che si riferiva ai politici. Sono battaglie troppo facili, non mi chiedete di combattere battaglie facili. Io modestamente sono quello che ha cercato di porre la questione Mladic, eccetera. A me piace. No, questo lo sappiamo. Da Mladic è vinta in partenza la polemica contro il grande questa difesa. Questa sta dicendo una cosa intelligente, Borghezio. Sì. È direi da prima elementare per, c'è una roba troppo facile per lei. Per lei è troppo facile. Non mi appassiona. Non mi appassiona. Però scusi, abbiamo tante questioni. Certo, adesso le affronteremo. Però per chiuderla, allora, questa cosa qui. Allora, lei ha già detto una cosa, bisognerebbe fare, eccetera, eccetera. Però, io, onorevole Borghezio, vorrei sapere una cosa. Ma la vera ragione per cui c'è questa opposizione, cioè lei che farebbe al posto, cioè, dovesse decidere lei domani, che farebbe? Su cosa, scusa? Sul grande raccolto, sempre sul GRA. Ma io, grazie a Dio, di quello che succede a Roma Ladrone non me ne fotte niente, quindi non mi interessa. È una partita che non mi riguarda. Cioè, ai romani che ci stanno ascoltando, ai signori della politica romana, il messaggio di Borghezio, qual è? Pagate subito. Ma io dico. Pagate gli arretrati, cos'è? Con molta chiarezza, ovviamente dovrebbero pagare gli arretrati, ma non mi interessa. Ma gli arretrati che vuol dire? Cioè, da quando? Scusi. Ben riflettendo, facciamo delle proposte positive, cioè il problema è questo, non lasciamo entrare questo virus in Padania. Il pericolo è questo. Quale virus? Di Roma? Che questa mentalità, queste cricche, tutto quello che leggiamo, il bisignanismo, eccetera, c'è un rischio mortale che questo virus arrivi anche da noi. No, scusi, lasci perdere il virus. Che cos'è che non dovrebbe entrare? Il fatto che uno non vuole pagare? Che cosa? Ma sì, ma questa mentalità è assolutamente anticivica. Noi dobbiamo preservare con le unghie e con i denti. Qualcuno diceva la linea gotica. Qui il problema è che il virus passa anche attraverso un eventuale confine. Bisogna stare molto attenti, perché viene veicolato dalla radio, dalla televisione, dai giornali, dal modo di pensare. Guardi, però quella cattiva cultura che viene diffusa, per esempio, dalla RAI, dal servizio pubblico, in maniera vergognosa, direi veramente immonda. Ma in che senso, scusi, viene diffusa dal servizio pubblico? Ma perché, scusate, i programmi dove li fanno? Li fanno là. E beh, che c'entra? E quindi tutto quello che arriva di lì è tutto circonfuso da questa cultura. Scusi, però ai tanti romani che ci stanno ascoltando, ma soprattutto ai politici, al sindaco di Roma, il messaggio di Borghezio ad Alemanno. Continuate a battere su questo argomento, di cui a me non me ne fotte niente, cioè, ripeto, non è una questione che sulla quale vorrei esercitare l'acido solforico che maneggio sempre con delicatezza e cautela, lasciatelo versare a litri su altre questioni. No, vabbè, però scusi, anche, al signor Alemanno, diciamo, una risposta al signor Alemanno. Anche voglio dire, diciamo che ovviamente a me fa persino tenerezza il sindaco di Roma se diciamo si deve attaccare a cose di questo genere. Perché fa tenerezza? Perché? Mi fa tenerezza, come mi fa tenerezza il suo collega di Napoli, ma scusate. Ma veramente alla sì, la Lega si oppone ad alcune cose nel decreto, non vuole. Che bisognerebbe fare a Napoli con questa storia dell'immondizia, Borghezio? Ma questo è un altro caso, è un altro caso similare sul quale devo dire io pregherei, siccome non ci sono le elezioni, quindi il sindaco di Napoli, De Magistris, non continui a regalarci degli assist, non esageri, perché in questo momento non siamo pronti a raccogliere, con i problemi che abbiamo al nord anche nella Lega, non siamo pronti a raccogliere tutto questo vento che lui fa soffiare a nostro favore, si muovere un attimo, cioè, un attimino queste sorti, questa presa di posizione sull'immondizia è troppo favorevole, è un regalo troppo grosso, noi in questo momento non ne abbiamo bisogno. Si modera un attimino, abbia est modus in rebus, non esageri nel dimostrare di essere, da un punto di vista politico-amministrativo, un idiota totale. No, non ne abbiamo bisogno in questo momento. Ma perché si dimostra un idiota totale, scusi? Beh, io penso che l'esternazione, diciamo, il discorso un po' da maga magò di risolvere questo problema in 5 giorni, un problema che le brillanti amministrazioni parte europee e parte camoriste non hanno risolto in 20 anni, beh, dimostra veramente una dabenaggine, un'idiozia, lei dice, una vacuità politico. Ma lei come l'avrebbe risolto se Borghezio fosse sindaco di Napoli? Borghezio sindaco di Napoli, come avrebbe fatto? Ma guardi, ripeto, non spariamo sulla Croce Rossa. Ma oggi non vuole sparare sulla Croce Rossa. Allora, do la pubblicità e poi vediamo di giungere ad una conclusione sulle due questioni fondamentali che sono Roma e Napoli. Lo so che sono cose che appartengono ad un'altra nazione, secondo lei, però di questo parliamo, signor Borghezio. E vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti. Brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male. Siamo sempre in diretta qui su Radio 24, il Sole 24 Ore, 800 24 00 24. Questa è Caro Parenzo, che è invece in diretta da Ponza, inconfondibilmente la Zanzara. E siamo in collegamento con Mario Borghezio, nostro caro amico, abituale ospite oggi, qui della Zanzara. Insolitamente moderato, non direi. No, anzi, altro che moderato, sempre più indipendentista, perché beh, quello si sa, quello che emerge è che a Pontide è stato chiaro, un grido unanime. Beh, c'è una spaccatura nella Lega però molto forte, signor Borghezio. Non c'è una spaccatura fra la base dei duri e puri indipendentisti. No, che non, nella base non, no, magari, però tra i delle chiacchiere anche dei pettegolezzi tra i dirigenti, sì, tra i dirigenti l'ala maroniana e quella bossiana, non me ne fotte niente. E quello che invece è molto importante, un segnale forte, sì, che è arrivato è questo pubblico, non diciamo solo di volontari verdi, di camicie verdi, eccetera, ma li avete visti, erano le persone venute lì con la moglie e con i figli che gridavano secessione. Sì. E questo, se permettete, lei ha goduto come un pazzo, direi è difficilmente superabile. Ha goduto come un maiale. È molto chiaro, e io credo che sia un segnale che ha rafforzato enormemente. Ecco, scusi un attimo, Borghezio, nella scala da 1 a 10, quanto ha goduto lei a Pontida? Beh, 10 e lode. 10 e lode. 10 e lode. Lode da quando ho sentito questi input dati, mi pare queste otto interruzioni. Com'erano? Dopo ce le faccia rievocare. A me sembrava di camminare un metro da terra, onestamente parlando. Ah sì, Io ho visto tantissima gente contenta che naturalmente si compiaceva. Ma com'erano queste interruzioni dal punto di vista proprio sonoro? Com'erano? Secessione. E devo dire, all'inizio, sapete com'è, l'Umberto che deve tenere ovviamente sempre un po' l'equilibrio di tutta la situazione, l'ho sempre saputo fare. A un certo punto si è arreso e ha detto quella frase significativa che in sostanza voleva dire: prima o poi comunque state pronti. E certo, se continuiamo a non avere risposte da Roma Ladrona, che farete? È lì che si va, e io dico che al fondo del cuore di Bossi c'è un secessionista. Ma quello al fondo del cuore di tutti i leghisti, diciamo la verità. Ma lo stesso Maroni alla fine ha detto, no? Ha fatto quell'invocazione alla Padania indipendente, no? Sì, però il grido secessione detto da migliaia di persone è un'emozione difficilmente ripetibile. Tranquille. Ecco, no, secondo lei, Borghezio, profondo, perché significa che la gente si è svegliata e ha capito fino in fondo. Cioè, nella scala dell'importanza nella sua vita, mette questa cosa al primo posto, no? Questa cosa qua. Ma io dico sinceramente che mi ha tirato sul morale in maniera incredibile, perché sa, il mio timore adesso, e poi c'è stato un altro fatto che mi tira sul morale, e cioè che in tutte sto leggendo i reportage dell'Espresso su Bisignani, ho letto ovviamente le cronache dei giornali di questi giorni, e non c'è una riga in cui si parli di qualcuno della Lega. Questo mi ha fatto un enorme piacere, perché noi sono ormai... Vabbè, però non dobbiamo anticipare i processi. Batticchiamo Roma, però grazie a Dio vuol dire che... non vi siete fatti infettare, diciamo. Siamo rimasti immuni, e questo direi che è positivo. Allora, però, questo è merito solo di Bossi. Senta, io direi però di chiudere con due giudizi lapidari, sempre sui due personaggi di qui sopra. Il primo è sempre il sindaco di Roma. Qualcosa però bisogna dire, perché ben ha detto un aggettivo, qualcosa. Ben ha detto di tutti i colori in queste ore. Glielo dico subito icasticamente, ed è di lui va bene tutto, escluso il cognome, perché meno Alemanno di così si muore. Meno Alemanno di così si muore. Non ho capito. Io, scusi, però Borghezio, meno alemanno di così si muore. Io sono, oggi sono un po' ritardato, me la spieghi tu? Lei alemanno, probabilmente qualche antenato che lo starà maledicendo dalla tomba. Diciamo che è una mentalità veramente molto, molto legata a questi stereotipi che noi, quando siamo quando vogliamo sparare sulla Croce Rossa, ecco, almeno alle meno... Sì, però la coda alla vaccinara l'avete mangiata anche voi con la Polverini davanti alla casa. Lei mi tocca su un terreno delicatissimo, ed è quello del mio stomaco. Io prima di andare a Roma Ladrona avevo uno stomaco che era prova di qualsiasi e cosa. E invece quando è arrivato a Roma, dopo la cura della cucina romana grassa ingesta, no. Pure la cucina adesso si mangia benissimo a Roma, dai. Certo, negativissima. Esperienza da dimenticare. Dica come, meglio l'abbacchio e la coda alla vaccinara della cassola, dai, scusa, che discorso è? No, a parte che io non mangio carne, ma è vegetariano, sempre come dire, un bel risultino con lo zafferano, un bel risultino alla milanese è sempre la cosa migliore, naturalmente anche A Roma si sta bene, però scusi, vuole paragonare Roma con Torino, col Piemonte? Non c'è paragone. No, infatti non le paragono, non c'è paragone, cioè? Con direi la raffinatezza della nostra cucina rispetto alla pesantuccia. Poi ognuno può piacere, certo. Scusate, Borghezio, però un'altra curiosità da chiedere. Quando stava a Roma, no? Non avvertiva il senso, andava nei taxi, come la trattavano? Oggi quando torna a Roma un po' la insulta. Guardi, hanno sempre cercato di fottermi i tassisti, io più volte ho dovuto chiamare la polizia. Ma questo è un fatto notorio, è una vergogna nazionale, cioè quando un turista arriva, loro magari mi prendeva, qualcuno non mi conosceva ancora all'inizio, mi prendeva per un povero turista e per andare dalla stazione, quando si arrivava ancora lì col metro, col raccordo dall'aeroporto, si arrivava magari in stazione o a Trastevere, eccetera, per andare in centro gli facevano fare il giro del mondo. E cioè hanno sempre cercato di è notorio il fatto che i tassisti romani cerchino di fottere? Molti, e direi una pessima abitudine, che è una delle cose che danno una cattiva immagine del paese. Borghezio, ma non si può dire, abbiamo tanti tassisti che ci seguono, ma è ingiusta questa accusa. I quali, se sono onesti, riconosceranno che mezzo loro ci sono diversi filibustieri che fanno. Ma come in tutto il mondo? Ma come a Torino? Senta Borghezio, invece scusi, il messaggero è stato a Torino, a Milano non mi è mai successo, sarà un caso. Borghezio, scusi un attimo, il direttore del messaggero, il signor Mario Alfero. La stessa esperienza l'ho avuta solo in Palestina, quando purtroppo sono dovuto andare a controllare le elezioni palestinesi. L'unico tassista che non ha cercato di fottermi era quello con i boccoloni che mi ha caricato nella parte ebraica di Gerusalemme. Gli altri sui arabi mi hanno cercato di fottermi. Ha sistemato anche scusi Borghezio, un'altra cosa, ma il direttore del messaggero, è stato molto duro, il titolo è stato Castelli insulta i romani e poi tutto un editoriale, eccetera, una cosa pazzesca. Poi c'è stato uno scontro, anche addirittura una minaccia di querele. Ma sai, i giornali devono pur vendere, quindi queste, diciamo così, si tratta di piccolo cabotaggio, ognuno si arrangia come può. Messaggero lo conosce lei, giornale di Roma, sì? No, devo dire che come cronaca parlamentare è sempre stato fatto molto bene. Io leggo solo quello, tutto il resto ovviamente non me ne frega niente. Beh, come al solito. Senta, su De Magistris invece diciamo un giudizio lapidario. Quello personaggetto da una cosa icastica, una cosa icastica. Anche una cosa icastica è questo. Come sempre il magistrato messo di fronte a cose concrete e serie non riesce a combinare un cazzo. Subito così. Detto così. Scusi, ma l'immondizia nel decreto, pare che la Lega voglia addirittura minaccia di lanciare le sedie al Consiglio dei Ministri. Questi sono abituati a convocare la gente, eccetera, a giudicare sempre tutti i disonesti esclusi loro, tutti gli approfittatori esclusi loro, tutti i pasticcioni esclusi loro, eccetera. Quando si trovano di fronte a un problema serio, il buon sindaco di Napoli è un esempio, fanno la figura dei coglioni. Scusi, ma portare la spazzatura dei coglioni, la spazzatura in altre regioni è ormai è una cosa che bisogna fare per forza. Ma io credo che la prima cosa che debba fare il sindaco di Napoli è, visto che è stato eletto con un largo margine, è dire a quelli, sia pure della minoranza che è andata a votare, dire ai suoi elettori: ragazzi, datevi da fare. Perché mi pare che ci sia una parte del paese, a cominciare dalle altre province della Campania, che non vuole risolvere il problema. E il nord invece deve fare la sua parte oppure no? Direi che ovviamente dobbiamo rimanere a guardare, ovviamente. A guardare? A guardare cioè... Direi una forte solidarietà sul piano morale. E invece? Ma neanche un netto. Ma neanche un netto. Neanche un netto. Vabbè, molto chiaro. Caro Borghezio. Se possiamo smaltirla a nord, perché non prenderla? Proprio una questione di principio la sua, scusi. Sì, beh, certo, perché indubbiamente il trasporto è a carico di tutti i cittadini e quindi lo paghiamo sempre noi. Caro Borghezio, la saluto. Arrivederci, mi raccomando, comportatevi bene quando non ci sono, perché mi hanno detto che fate un po' i birichini quando io non sento. Non con chi? Con chi? No. Con chi facciamo? Volano, direi, delle cose. Mi ha detto che mi prendete in giro, che... No, mai! Io ho detto che quando sono... Delle zanzare. Bisogna le zanzare, bisogna buttargli... degli ettolitri di mai io vorrei mettere se avessi la patente metterei i comizi di Borghezio del Tom Tom. No Borghezio, le hanno riferito male, le hanno riferito male. Ogni tanto qualche battutina ci può stare da parte di tutti, vabbè comunque mi raccomando, sì, per carità, per carità. Accorti. Va bene, perché anche noi al nord adesso abbiamo la mafia, quindi dovete stare fuori. Vabbè, minaccia. Pubblicità. Ci hanno portato anche sti condizia qua. E vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti. Brutta banda di ruffiani ed intriganti. Questa è una canzone, non è che l'analisi della zanzara, insomma, no. Il grande Fortis, che la scrisse perché era arrabbiato con i discografici romani. Bellissimo. Allora, c'è un gentile ascoltatore che mi scrive che sono diventati oggetto di discussione su alcune radio romane e sembra che la vicenda Castelli abbia provocato varie critiche nei nostri confronti da parte di un movimento per Roma o cose di questo tipo. Anche nei nostri confronti? Ma sì, follie assortite. Fatua contro Cruciani e la Zanzara. Gabriele dalla provincia di Brescia, buonasera. Buonasera, allora chiamo dalla provincia di Brescia, però sono romano. Sì. E vi ascolto sempre perché è proprio in quell'ora che vado in macchina e vado al lavoro. Sì. E devo dire che se volete veramente fare i giornalisti seri, dovrete fare meno risatine verso questi signori del governo che vi chiamano e voi e la risatina, la battutina. E poi non vi stupite se chiamano Floris, se Pier Silvio Berlusconi chiama Floris. Per andare a Italia 1, perché io credo che quello sia il suo obiettivo, perché non credo che lei voglia restare tutta la vita per radio, lei deve fare il giornalista, perché ne ha le capacità, io lo sento che ne ha le capacità, però fa troppo risatine, battutine, quando parlano Castelli, quando Castelli dice quelle stronzate, quando Borghezio invece dovrebbe stare negli Stati Uniti, Borghezio starebbe in galera, perché sarebbe nel Ku Klux Klan Borghezio. Dovrebbe stare. Infatti non sono in galera quelle. Infatti non sono in galera, sono legali. Ma perché non studia anche lei? Negli Stati Uniti il Ku Klux Klan è legale fino a quando non commette dei reati. Sì, infatti con quello. Borghezio commette dei reati, perché andare su un treno a mettere il disinfettante in faccia alle donne negre non è bellissimo. Come non sono è, le donne, scusi? Negre. No, perché di colore magari. Comunque, no, io ho detto. Non è un insulto, dire negro a una persona. No, un insulto, ma infatti volevo. Perché deriva da Niger. No, ma volevo capire. Quindi per me non è un insulto. E invece quello che fa Borghezio è una cosa abominevole. Invece, quando vi chiamano Fede, Castelli, invece di leccare, fate giornalisti, perché la gente che vi ascolta se ne accorge che leccate. Invece, quando non leccate, all'ironia è leccare. Poi vi chiamano anche a Italia 1 o a Rete 4. Fissato lei con Italia 1, cioè una fissazione. Sì, perché lei l'ho sentita molto piccata, dottor Cruciani, quando ha sentito che Pier Silvio Berlusconi ha chiamato si è interessato a Floris. Io piccato. Floris non è un grande giornalista, è uno che ci titolo. Prova. È uno che ci prova a fare. Ma lei è impazzito totalmente? Cioè, piccato dove? Sì. Quando? Perché? È impazzito. Beh, era totalmente molto piccato. Piccato? Quando... Ma è... Sì, quando... Ma lei è nel mio cervello? È lei, le no, mie... no, no, no, l'ho sentita molto bene. Lei quando... L'ho sentita molto bene. No, ma è interessante questa analisi. Questa sì, analisi. Lei quando parlava con... Io ero piccato, io mi divertivo con un matto, ridevo come un disperato, figuriamoci se ero piccato. Ma lei proprio non ha capito nulla, scusi, signor Gabriele. Mi permetto di farle osservare. Poi lei può dire quello che vuole. L'abbiamo lasciata... parlare in totale e forse eccessiva libertà di cosa dovremmo fare noi per fare i bravi giornalisti, eccetera, eccetera. Va benissimo tutto, ci facciamo dare lezioni anche da lei, ci va bene, però non dica troppe stronzate, abbia pazienza, cioè, a tutto c'è un limite, di anche la tua Parenzo, a tutto, caro no. Signor Gabriele, a tutto no, c'è un caro, limite. Caro signor Gabriele, se non riusciamo a distinguere la differenza che c'è tra un risolino ironico, ma e qualcosa... siate meno mediocri, siate più giornalisti, io sono sicuro che dopo questa telefonata voi sì. Sarete sì. Un poco più giornalisti e meno mediocri, grazie, sì. Allora, non, fate, grazie non vi occupate troppo dei rutti della politica, grazie. Vi state occupando dei rutti della politica, questo è possibile. Giornalisti. Questo è possibile, questo è perché possibile. Io l'ascolto e a volte l'ascolto sì. Anche con piacere. Meno male. Però troppo lecchini, troppo lecchinaggio. Benissimo. Va bene, perfetto, Gabriele. Vado a farmi dei gargarismi perché prendiamo lezione, prendiamo appunti, Grazie signor Gabriele, Sono un ascoltatore qualunque io. Questo no. L'avevamo capito, insomma, cioè, non, è un ascoltatore come gli altri, non qualunque, un ascoltatore come gli altri che... Come tanti altri. Però lei dà del lecchino alle persone, io la lascio parlare in tranquillità nonostante queste stupidaggini colossali. No, lei purtroppo lo fa, a volte io lo fa. Lo faccio benissimo. Con gli uomini di governo che la chiamano. Sì, non... sì, sicuro, guardi, ecco, infatti quella volta con la Russa è stato... Quella volta con la Russa è stato così, anche apprezzato dagli uomini di governo. Ma questa trasmissione, quante notizie ha tirato fuori, amico mio? Parliamo di fatti concreti. Quante cose hanno detto i ministri, la maggioranza, l'opposizione? Quante cose dette alla Zanzara sono diventate notizie, amico mio? Per andare alla pancia delle persone, per tirare fuori il pensiero vero, la tecnica maieutica del Cruciani, e nel piccolo del sottoscritto, forse serve a tirar fuori, a far venire fuori un ritratto vero del politico. Il lecchinaggio non c'entra nulla, Gabriele. La gente ha bisogno di altro. Sì, la gente ha bisogno di altro, questo lo pensa lei. Questo lo pensa lei. Moralizzatore. Sia tranquillo, moralizzatore. Quando si arriverà alle urne. Sì, sì, ma che c'entrano le urne? Cosa c'entra? Cosa c'entra le urne, Gabriele? Ma vedete come cambia il vento. Sì, cambia il vento. Poi è troppo scoppia la bufera. Com'era quella canzone? Cambia il vento. È troppo tardi per fare cosa? Ma per fare quale vento? Ma di quale vento sta parlando? Di che vento? Di cosa il parla? Vento di cambiamento si ma sta di che, cambiando di che sta voi, parlando? Voi ancora rimanete legati al vostro lecchinaggio verso i potenti. Ma lei sta delirando. Di fare un po' più giornalisti. Lei sta delirando. Lei è in pieno delirio. Si vada a curare. Si vada a far visitare. Ma si vada a curare lei. Si vada a far visitare. Allora se la prende così, allora gli dico si occupi della Lazio. Che forse allora è il suo mestiere. Adesso con questo, ecco. Con questo mandiamo, con quest'ultima chicca mandiamo il traffico. E vi odio a voi romani, io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti. Eccoci qui alle 20:22, 800 24 00 24. E ti presento, caro Parenzo, un ospite che da un anno, forse qualcosa in più, non viene alla Zanzara. E devo dire che in queste ore si è sentita la necessità di chiamarlo. Caro Parenzo, in collegamento da Ponza, il signor Gioele Magaldi. Buonasera. Buonasera, del Grande Oriente Democratico. Che è, come possiamo definire il Grande Oriente Democratico, signor Magaldi? È un movimento massonico interno al Grande Oriente d'Italia, un movimento massonico d'opinione e dissidente rispetto all'attuale Gran Maestro Gustavo Raffi. Gustavo Raffi. Il Gran Maestro? Gustavo Raffi, il grande maestro della massoneria, Gustavo Raffi. E senta, il signor Gelli come si pone in questo contesto? In quale contesto, mi scusi? Cioè, in cui esiste quella, diciamo, il signor Raffi, e poi esiste il Grande Oriente Gelli Democratico. È stato il maestro venerabile... prima il segretario organizzativo, poi il maestro venerabile di una loggia del Grande Oriente d'Italia, la loggia Propaganda 2. Sì. Esisteva da prima di Gelli. Esiste ancora la loggia Propaganda 2? Come? La loggia Propaganda 2, 3 o 4 esiste ancora? No, la loggia P2 ha avuto una vita ufficiale, che sarebbe terminata nell'81, sì, con il noto scandalo, certo, di Confibocchi, gli elenchi, eccetera. Poi naturalmente c'è una storia ufficiosa e abbastanza sotterranea che è proseguita, cioè non si trattava più di P2, ma si trattava di un sistema ugualmente trasversale ed efficace che ha gestito in prima persona il Gran Maestro Armando Corona, sì, che dall'82 al 90 è stato Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e che è stato anche grande accusatore di Gelli, quindi ne ha poi ereditato però in modo più o meno come dire felpato e sì, visibile ambienti, relazioni, eccetera, eccetera. Eccetera, scusi Magaldi, però da lei vorrei capire se quando legge sui giornali la P4, no, e tutte queste inchieste, cosa pensa? Esiste davvero questa sorta di loggia guidata da questo signor Bisignani? Mi dica. Guardi, il problema è tutto di una serie di malintesi, anche perché e di solito il giornalismo italiano si occupa di massoneria e di, diciamo così, di politica occulta o di poteri invisibili soltanto con emergenze un po' scandalistiche, mentre sarebbe interessante studiare la storia, no, di questi gruppi, della massoneria in generale e dei gruppi che da essa germinano in modo forse più approfondito. Invece, però detto questo, sì, la loggia P2 è stata una loggia effettivamente esistente all'interno del Grande Oriente d'Italia. C'è una cosa seria, lei dice. P3, no, ma non è questione di serietà. P3 e P4 sono denominazioni giornalistiche per indicare in realtà che colgono frammenti di un mondo che non è mai terminato, cioè il mondo della P2 è, sì, ancora fra noi, come tra l'altro la P2 è ancora tra noi. Noi di Grande Oriente Democratico, quello che stiamo cercando di fare insomma da qualche mese, sì, è anche di spiegare come funziona il back office del potere in Italia e altrove. Cioè lei questa inchiesta sul signor Bisignani l'ha sorpresa, cioè qualcosa di cui si stupisce, oppure era tutto già, lei sapeva già tutto? Insomma, io sono un po' divertito dal modo in cui viene nei suoi toccata elenchi, quelli che lei conserva, Bisignani c'è o non c'è? Non ho capito, scusa. Negli elenchi famosi che lei una volta ci disse che ci esistono. No, Bisignani aveva la tessera numero 1689 della P2. Lui lo nega, nega, no, dice... ma non c'è da negare. Tra l'altro, oggi la DN Kronos c'era un lancio di Licio Gelli nel quale, sì, appunto glieli ribadiva. Ma insomma, c'è poco da negare, la tessera esiste. Tra l'altro. E questo che significa il fatto che Bisignani ha avuto la tessera? Allora, Bisignani, tutti. Tra l'altro io sono abbastanza, ripeto, divertito, perché c'è una differenza tra gli addetti ai lavori che sanno benissimo da anni, e parlo di tutti nel, sì, mondo dei media, della politica, sanno dell'economia, sanno tutti benissimo chi fosse Bisignani e cosa facesse, sì, e la grande massa che appunto viene edotta solo in questi momenti di emergenza su queste, sì, vicende. Bisignani è stato piduista in quell'epoca, ma evidentemente ha proseguito un suo percorso di potere. Cioè, non ci scordiamo che non soltanto Bisignani ha proseguito indenne dopo lo scandalo P2, che ha fatto fuori soltanto alcuni vertici della loggia, no? I più colpiti sono stati Gelli e alcuni altri. Ma insomma, Berlusconi ha continuato il suo apprendistato massonico dall'82 al 90 in stretto rapporto con Corona, sì, e con altri personaggi che di Corona erano molto amici, tra cui Cossiga, Pisano, Carboni e via discorrendo. Sì. Bisignani ha proseguito un altro suo percorso che l'ha portato nel 92 ad essere insomma in un ruolo importante nella Ferruzzi, e l'ha portato, diciamo, dopo il 92, sì, e negli anni 90 anche a legarsi ad un certo mondo occidentale che dialogava molto con la Russia di Yeltsin. Perché una cosa che non viene spiegata, per esempio, è che c'è stato un grande fermento di ricostruzione di realtà massoniche nella Russia post-Gorbaciov. E Bisignani è stato attivo in questa cosa. Senta, scusi, tra il tipo di loggia da cui discende Berlusconi e quella di Bisignani, che differenza c'è? Non ho capito, mi scusi. scusi. Cioè la loggia che ha continuato a frequentare Berlusconi, no? No, Berlusconi non ha continuato a frequentare logge. Berlusconi è dopo lo scandalo P2 dell'81 è direttamente entrato a far parte del cenacolo più intimo del gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Armando Corona. Benissimo. Senza bisogno di logge o non logge. Esatto. Cenacolo del gran maestro. Io ho poca dimestichezza con sì, tutto. Cenacolo del gran maestro. Del gran maestro. Alberto Corona, sì. Ma che succede in queste riunioni? Armando Corona. Io non riesco a capire. Che succede? Ci si mette il grembiule, che succede? C'è qualche rito particolare? Allora, facciamo delle io guardi veramente sono a digiuno di tutti questi grembiulini. Sì, no, io credo che molti italiani lo siano, perché se non si fanno in tempi di pace trasmissioni approfondite, ma soltanto c'è Bisignani in questo sì. Cenacolo c'era o no Bisignani? In quale cenacolo? Mi quello di Berlusconi, Corona, eccetera. No, sono due cose diverse. Appunto. Sono due traiettorie diverse, anche per il peso relativo diverso che ovviamente nell'82 avevano Berlusconi e Bisignani. Sì. No, non confondiamo le no, epoche. No, no, assolutamente. Allora, tra borse torniamo subito. Come si dovevo fare? Sodomizzarlo? Mettergli due dita negli occhi? Provare ad accecarlo? Picchiarlo? Che cosa dovevo fare secondo loro? Santo Dio! Dice Di Pietro a Luca Telese oggi sul Fatto. E c'ha ragione. E invece ad Aldo Cazzullo dice... Aspetta che lo trovo, Cosa avrei dovuto fare? Menarlo, morderlo, strappargli i capelli finti? Il Presidente del Consiglio ti avvicina in Parlamento non in un sottoscala e tu come reagisci? Lo ascolti, tieni la posizione e lo inviti a seguire il tuo intervento. Dunque è vero che ha invitato Berlusconi a seguire il suo intervento. Però, durante l'intervista ad Aldo Cazzullo dà un'altra definizione di Berlusconi, oltre a tutte quelle che già ha dato, Videla, Nerone, eccetera, eccetera, quelle che avete ascoltato dall'inizio. Ed è un'altra. Sentite, il governo Berlusconi non è né liberale né popolare, è un gruppo di potere che sta piegando le istituzioni a interessi privati su un modello piduista. Più che Videla, Berlusconi è Don Nascimento. E poi a un certo punto Cazzullo dice, chi? Il mago. Ma ormai gli italiani... Don Nascimento, quello di Vanna Marchi, sì. Quello di Vanna Marchi, certo. Ma ormai gli italiani hanno scoperto la truffa e non gli credono più, eccetera, eccetera. E voglio ricordare che di fronte a quello che dice Di Pietro, cosa avrei dovuto fargli, il senatore Pardi, dell'ala più dura dell'Italia dei Valori, ieri alla Zanzara ha risposto in questo modo. Io mi sarei scansato. Ne vedete tutti i colori su Berlusconi, anche Di Pietro. Cioè, quando Berlusconi si avvicina, uno dovrebbe dire io con te non... Non ci parlo nemmeno. Sento l'odore dei soldi. Stai lontano. Io forse avrei addirittura saltato lo scranno. Hai capito? Chi ha ragione, certo. Di Pietro o Pancio Pardi? Ma ha ragione Di Pietro tutta la vita. Secondo me i suoi Di Pietro è un po' vittima del suo popolo. Quando lo attaccano sul blog, io li ho visti, oggi ho un caso da fare. Mi sono messo a vedere il blog di Di Pietro e i commenti che c'erano. È un po' vittima di questa propaganda che nel corso di questi anni ha tirato su. Ma la politica è questa, era in Parlamento, cioè. Senti, fermati un attimo. Sì, chiedo scusa. Signori, allora, veloce, dinamiche, svelte. Perché? Perché con noi il grande maestro di vita, Don Nascimento! Buongiorno, buongiorno! Quante mie incertezze! E t'ho pizzicato anche Don Nascimento! Numero uno! D'accordo? D'accordo? Ti ricordi quando faceva sempre? D'accordo? Gente marchese Capra de Carré, che lo presenta come suo cuoco e maggiordomo. Nel 96 conosce, sempre nel salotto del Marchese, Vanna Marchi e Stefania Nobile, e il quarantenne brasiliano si trasforma come per magia nel maestro di vita Don Nascimento. E il bello è che poi nell'intervista dice Berlusconi è una persona sola, se fa le riforme vere io lo sosterrò, e con il premier mi felicitai per la forza con cui aveva superato la malattia, e poi lo paragona a Don Nascimento. Cioè, è veramente un meraviglioso Zelig Di Pietro, uno straordinario Zelig. No, sì. Ma c'è coerenza invece, lui dice sui provvedimenti, ragioniamo sui provvedimenti. Sì, vabbè, c'è coerenza, certo, ma si abbassa le tasse, scusa, e alza, ma e sì, alza le tasse, ma fa bene, perché uno non deve votare. Ho capito, ma gli date, no, poi gli dice sei come Don Nascimento, ma abbi pazienza. È la politica. Sì, vabbè, certo. È la bellezza della politica. Che Zelig straordinario. Allora, signor Magaldi, Gioele Magaldi, del Grande Oriente Democratico. Ma io non ho capito ancora niente di sta massoneria, il Grande Oriente, No, aspetta, adesso sì, fai la persona seria un attimo. Sono serissimo, ma non mi interessa. Io voglio capire una cosa, questo Bisignani a che loggia apparteneva? Sì, guarda, intanto per anche per il suo ospite vorrei dire che da novembre, per Chiare Lettere, esce un mio libro. Oh, ecco. Si intitola Massoni, società, responsabilità illimitata. Bene. Sì. E farà un po' di chiarezza sui rapporti tra massoneria e potere sia in Italia che all'estero. Bene, grande annuncio. Allora, libro per Chiare Lettere. Non si capisce nulla di massoneria. Bravo, libro per Chiare Lettere di Magaldi, Gioele Magaldi, Grande Oriente Democratico, uscirà a novembre per Chiare Lettere, in cui, come dire, si sveleranno i grandi intrecci, immagino, no? Tra politica e massoneria. Si sveleranno un po' di cose. Vabbè, signor Bisignani, ce lo collochi un po' dal punto di vista della massoneria? Allora, Bisignani, intanto, quando si parla di Bisignani, bisognerebbe parlare in accoppiata anche di Letta, che sì, è stato definito da qualcuno un gentiluomo. E invece? Io aggiungerei gentiluomo di sua santità. Sì. Come era anche Umberto Ortolani, che era il numero due di Licio Gelli nella P2, sì, e come era Angelo Balducci, coinvolto di recente nella vicenda della cricca. Ecco, dunque, lei cosa vuole dire? Uomini di sua santità che, a quanto pare, insomma, hanno una certa dimestichezza anche con mondi che dovrebbero essere separati e distinti. Dunque, lei vuole dire che tra Bisignani e Letta c'è un legame profondo? Sì, e dico anche un'altra cosa, che l'altro giorno all'Infedele, per la prima volta credo, è stato citato un libro su Gianni Letta, biografia non autorizzata, sì, di Filippo Barone e Giusy Arena, che è stato un libro che quando è uscito è stato abbastanza silenziato, sì, dai media. Ecco, allora forse, ripeto, invece di parlare soltanto quando ci sono emergenze di rapporti, relazioni, chi sono queste persone che noi vediamo soltanto, no, ad una dimensione, quali sono le loro storie, i loro reticolati di potere, ecco, sì, sarebbe il caso di illuminare meglio queste zone. Mm. Ecco, grigie. Però illuminiamo un attimo una cosa, io voglio capire, allora P4 lei ha detto è un termine giornalistico che non significa niente, giusto? No, esattamente. Esatto. Non si è dunque, quando Licio Gelli oggi nell'intervista alla Diana Cronos si dice che la P4 esiste solo nella mentalità dei giudici, un po' c'ha ragione. No, ha torto anche lui, perché? Nel senso che P3, perché veniamo da una P3 la scorsa estate, sì, scoppiò appunto questo scandalo, sì, P3. Adesso si parla di P4, probabilmente in questo Gelli ha ragione, fra un po' si parlerà di P5. In realtà questi sono frammenti, sì, che se si volesse rimettere insieme, sì, si scoprirebbe si riconducono a un mondo di poteri che non è mai scomparso, che bene o male gravitano comunque attorno a Berlusconi. Ah, ho capito. Dunque, Berlusconi sarebbe secondo lei sostanzialmente il capo di questa no, P2, no, P3, no, P4, no, P3, P4, cioè, no. Bisignani non è un uomo al servizio di Berlusconi. Bisignani fa che è un personaggio mercuriale, io direi che un personaggio, scusi? È un personaggio mercuriale, cioè ha fatto una bella definizione a suo tempo Barbacetto quando diceva Bisignani l'uomo che collega. Mercurio Hermes è intermediario. Diciamo che Bisignani non va né sopravvalutato né sottovalutato. Non è lui è un uomo che rappresenta interessi vari. Alcuni di questi suoi interessi hanno coinciso con l'ambiente berlusconiano e con le esigenze di Berlusconi e seguaci. Sì. Altri no. Ma ha un capo questa P4 o questa P3 che lei dice si possono ricondurre poi alla fine allo stesso ambiente? Ma ha un capo, c'è un capo, uno che tira le file. All'epoca c'era Gelli, no? Ma vede, non esiste. Allora, mi spiego meglio. Dal 91 è esistita ed è durata fino a tempi recenti una loggia specificamente gestita da Berlusconi. Da Berlusconi. No, dico da quando? Dal 91. Dal 91, una loggia specifica gestita da Berlusconi. Esattamente un anno dopo che finisce la Gran Maestranza di Armando Corona, sì, Berlusconi ritiene che è il momento di poter fare da solo. Sì. E quindi poter interloquire con ambienti massonici extra-italiani, sì, avendo una sua realtà fatta in casa, sì, quindi irregolare rispetto ai circuiti, sì, internazionali della massoneria, sì, e tuttavia efficace e luogo di incontro del tempio famoso. Personaggi. Pronto? Quel tempietto famoso c'entra qualcosa? No, quello è solo, come dire, una sorta di indizio per chi avesse qualche dubbio sugli interessi anche spirituali, esoterici e filosofici. Chi fa parte di questa loggia berlusconiana, diciamo? Come? Chi fa parte di questa loggia berlusconiana? Insomma, questo mi riservo di metterlo nero su bianco nel libro. Nel libro. Uscirà, però, Letta? Però, Letta ne fa parte? Ma io, guardi, mi piacerebbe che qualcuno glielo domandasse. Vabbè, perché le spiego come io credo di dovermi comportare rispetto a chi nega di essere massone. C'è stato il caso di Antonio Baldassarre che, chiamato in causa come massone, negò e io un minuto dopo feci presente l'anno, il luogo, i presentatori, sì, e quando e come era, sì, stato iniziato. Bisignani, rispetto alla loggia di Berlusconi che agisce nel 91, come si colloca? Bisignani si colloca per un'altra strada, le dicevo, Bisignani si colloca nell'intreccio di rapporti di massonerie occidentali che hanno interesse a ricostruire il tessuto massonico nei paesi dell'est Europa. Una cosa pazzesca. Parenzo, scopriamo delle cose incredibili. Molto molto interessante, però io non ho ancora capito se è improprio forse parlare di massoneria nel caso di Bisignani. Cioè, non credo che c'entri la massoneria, è più un gruppo di potere che lei descrive. Non è così. Oh no. L'una e l'altra cosa, e non è improprio perché Bisignani è effettivamente stato iniziato massone nella loggia P2. Che era una loggia regolarmente costituita. Però non è un po' una moda giornalistica quella di attaccare, cioè sinonimo di massoneria per la vulgata è gruppo di potere segreto che trama, diciamo, trama contro gli interessi pubblici, questa nella vulgata, cioè la P2 era un po' questa roba qui, no? Cioè tramava all'interno dello Stato per fare un colpo di Stato e quant'altro, nella vulgata, no? Quello che sembra venire fuori, adesso lo sto andando per, come dire... Cioè Bisignani che voleva fare? Dire una cosa diversa? Che voleva fare? Mi sembra una roba diversa, faceva semplicemente, metteva in contatto... Grande lobbying, per... no? Lobbying un po' pesante. Il problema è che noi cosa cogliamo, cioè cosa coglie il pubblico? Dei frammenti. Certo. Quello che appare oggi sui media sono intercettazioni, telefonate, rapporti, ma... quanto materiale che ancora non c'è, cioè quanta conoscenza del perché, di chi, di come, cioè da dove fonda Bisignani il suo potere? Senta, ma Berlusconi i riti massonici li fa ancora? Ma Berlusconi ha un rapporto, l'ho detto anche in altre occasioni, in altre interviste, ha un rapporto esistenzialmente importante con l'esoterismo. Con i riti, con l'esoterismo, con i riti massoni. Non è stato un incontro appunto affaristico, strumentale, ma spirituale. Con la come magari può esserlo con ambienti cattolici, dove lui si è servito di ambienti cattolici per fini di potere. Qui c'è un'adesione filosofica, naturalmente. Senta, ma la cosa curiosa è il sesso, c'entra in queste robe qua, perché è stato il sesso. Allora, ci sono persone che dicono in giro di aver partecipato a situazioni intermedie tra quelle che conosciamo del Bunga Bunga e quelle che sono i riti esoterici più castigati dell'esoterismo massonico. Questo si fa interessante, un attimo solo, il traffico, poi torno per questa piccolissima conclusione su questa vicenda. Poi è tutto molto confuso, Bisignani, Berlusconi, i rapporti, bisognerebbe spiegarlo bene, ci sono anche gli ascoltatori, a tra poco. Allora, 800 24 00 24, è un pericolo Bisignani per lo Stato democratico, signor Gioele Magaldi? Il discorso bisogna vedere da che punto di vista si guardi. Se la sostituzione di poteri pubblici, democratici, trasparenti, la sostituzione a questo di relazioni occulte, spesso basate sul favoritismo, sull'interesse privato, se questo è un pericolo per la democrazia, allora Bisignani è un pericolo per la democrazia. Senta, che relazione c'è tra i riti massonici di Berlusconi, quelli che lei più volte ha descritto, e il sesso? E ripeto, ci sono alcune testimoni che dicono di aver partecipato a situazioni di magia sessuale, di riti di magia sessuale, che poi sono una cosa non tanto folcloristica, perché appartengono insomma ad antiche tradizioni orientali e occidentali, e ce n'è un uso molto più diffuso di quanto non si creda. Anche Berlusconi? Si dice, ci sono persone che sostengono di aver partecipato, tra l'altro che sostengono di aver partecipato insieme a Berlusconi e anche insieme a personaggi che sarebbero poi inseriti nella loggia di Berlusconi, persone a lui molto vicine. Riti massonici... In stile Eyes Wide Shut, no? Come il grande film di Kubrick, probabilmente. O no? Come il sogno. Kubrick non è che si ispira dal nulla, voglio dire. Non è che si è ispirato da Berlusconi. Al di là del fatto che il grosso pubblico se ne accorge solo una tanto, ma insomma, queste cose esistono. Sono delle, cioè, lei dice che alcune serate bunga bunga in realtà poi si trasformano, così le hanno ci sono tre livelli, lei deve dire insieme tre livelli, cioè il momento ci sono stati, perché adesso è molto più guardingo ovviamente, sì. C'erano riunioni massoniche, specificamente massoniche, c'è sempre stato un suo, diciamo, un suo spirito goliardico, e quindi festini, pecorecci, più o meno pecorecci, e poi c'erano situazioni più elitarie con persone selezionate che insieme ad allegre fanciulle o anche fanciulle, diciamo, meno anonime, praticavano insieme dei riti di magia sessuale. Questo è ciò che raccontano alcune persone. Sì, dei riti, scusi, dei riti? Riti di magia sessuale. Riti di magia sessuale, che cosa prevedono? In Oriente esiste la tradizione del Tantra, che è una tradizione filosofica dove si pratica una magia, si praticano dei rapporti sessuali con finalità magiche, iniziatiche, di perfezionamento spirituale. In Occidente esistono da secoli tradizioni analoghe. Per esempio, ce ne spieghi uno? Che succede praticamente? Ma l'idea di fondo, che poi è un'idea che fu anche un pochino smascherata dalle dichiarazioni di Veronica Lario quando parlò del drago con le vergini. Sì. Cioè, l'idea di fondo è che una delle varianti della magia sessuale è che una persona possa acquisire energia e quindi vitalità, benessere, salute attraverso l'uso sessuale di altre persone. Ho capito. Dunque, questa è la filosofia. È la tradizione filosofica, adesso, vera o falsa che certo, sia. Però nei particolari lei il rito non lo conosce. Quale no, tipo? Io diciamo, siccome ho qualche cognizione storica antropologica, conosco, ma adesso non credo sia questa la sede per spiegare nei dettagli come funziona. Cioè, ci sono dei rapporti sessuali ritualizzati, dove evidentemente ogni componente del congiungimento carnale è accompagnato da determinati comportamenti, determinati presunti stati di coscienza. Insomma, comunque l'idea è quella che, per esempio, a livello più basso di questo tipo di credenze, c'è l'idea che fare l'amore con una persona molto più giovane dà modo a chi è iniziato, a chi è in possesso di determinate conoscenze, di vampirizzarne l'energia. Vampirizzarne l'energia, ho capito. Ma se ti ricordi, infatti, volevo chiedere al professore, perché sempre in questa situazione, adesso mi torna alla mente, una di queste ragazze sosteneva di aver, adesso non so se è vero, di aver baciato addirittura il pene di una statua. Ti ricordi nell'intercettazione? Sì, allora volevo chiedere al professore se c'è anche questo rito di questa statua che io sto a quello che avevano pubblicato in giornale, poi non mi intendo. Signor di questo Magaldi. È curioso, guardi, visto che parliamo di riferimento al fallo è un riferimento ad una divinità che è proprio parte di questa tradizione iniziatica, cioè Priapo è il dio con il fallo sempre eretto. Ho capito. Certo. Però vampirizzare l'energia è interessante. Bene, signor Magaldi, grazie. Grazie a voi. Grazie della sua partecipazione. 800 24 00 24. Abbiamo Mario da Prato. Buonasera, signor Mario. Buonasera, Cruciani. Buonasera anche a Parenzo. Volevo fare un intervento che si ricollega molto all'intervento di Giovanni Magaldi. Praticamente la mia considerazione era sulla questione della privacy. Allora? Beh, dico che la moneta chiede l'etica, il Sole 24 Ore e Radio 24 dovrebbero occuparsi della questione dell'etica. Quando io voglio toccare i soldi pubblici, non posso invocare la privacy. Quando io voglio la privacy, fuori dalla politica, perché quando io tocco i soldi pubblici sto toccando i soldi di Cruciani, toccando i soldi di Parenzo. No, ma non ho capito, che vuol dire questo? Io, senta, sono consigliere provinciale a Prato. Sì. Io credo che nel momento in cui scelgo di essere candidato in politica, da quel momento non posso invocare la privacy. Ma che c'entra questo con la diffusione delle intercettazioni, scusi? Con la pubblicazione? È fondamentale, questi Bersani che dice bisogna che certe cose siano... No, noi vogliamo sapere se una persona si benissimo, incontra, lei metta sotto controllo il suo telefono continuamente. Continuamente. No, le sue telefonate. Un'altra cosa, mi perdoni. No, lei sta dicendo sulla questione soldi. finché uno decide di spendere i propri soldi, faccia come ma vuole. Ma che c'entra questo? Stiamo parlando delle intercettazioni, è un altro discorso. Senta, signor Mario, lei è molto... a valutare un politico se si comporta bene o male, se non sappiamo come si comporta. Ah, bene, appunto le dico, momento. Allora mettiamo sotto controllo anche il suo telefono continuamente, dato che è un politico, è consigliere provinciale. Di essere in deve essere controllato continuamente, ma è un'idea barbara, è un'idea barbara. Ci sentiamo. Se vuole tornare nel buio, esca dalla politica. Se vuole tornare nel buio, esca dalla politica. Caro Parenzo, ti saluto. Lunedì, no? Ci sentiamo lunedì 18:30. Radio 24. La passione si sente.